Benvenute e benvenuti, Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 15 settembre del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ascolta la diretta. Per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi e la trasmissione, tutte le informazioni le trovate sul sito della radio. Sempre colonna home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Chiara Tosato, per parlare con lei dell'Infinity Film Festival, dell'anteprima del documentario Gimme Danger e della premiazione di questa sera al Milano Film Festival, oggi giovedì 15 settembre. Chiara, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, sono contenta di essere qui con voi oggi e dell'opportunità che mi date di parlare di queste belle cose che noi di Infinity, servizio di video on demand in streaming di film e programmi TV, appunto, che Infinity ormai da anni realizza proprio a sostegno dei giovani talenti del cinema e delle web series. Sì. Infatti l'Infinity Film Festival è ormai giunto alla sua terza edizione, è un festival esclusivamente online, è un festival che si rivolge al pubblico dei giovani, al pubblico della rete, ed è un festival che vuole promuovere giovani talenti ma anche contenuti innovativi e nuovi formati, in particolare oltre ai corti le web series che sono molto amate dal pubblico della rete. Mm-hmm. E poi vorrei aggiungere che è anche un festival proprio popolare, molto democratico, perché è proprio il pubblico ad essere il giudice e a decretare i vincitori sulla base del numero di visualizzazioni e di voti che le opere in concorso nel festival ottengono all'interno del nostro servizio. Sì, sì. Ora, quest'anno, proprio in occasione della premiazione di questo festival che facciamo questa sera, ospiti del Milano Film Festival, lanciamo una nuova iniziativa, sempre per promuovere i nuovi talenti, e che realizziamo insieme alla piattaforma italiana di crowdfunding che si chiama Eppela. L'iniziativa consiste nel cofinanziare insieme al pubblico della rete progetti creativi da realizzare, che quindi oggi sono su carta ma che appunto potrebbero diventare realtà attraverso il nostro contributo e attraverso il contributo della rete. Quindi è il lancio di una campagna di crowdfunding. Assolutamente, assolutamente, a sostegno appunto dei nuovi talenti del cinema italiano. Senti Chiara, quindi, sì. Questo rapporto con il Milano Film Festival come nasce? Questo rapporto nasce lo scorso anno in realtà, perché già nella seconda edizione abbiamo collaborato insieme a loro, nella misura in cui sia per taglio sia un po' per vocazione ci sono tanti punti di contatto con loro. Infatti direi che il Milano Film Festival tra i festival italiani è forse tra quelli più all'avanguardia, che coinvolgono maggiormente i giovani, e poi si colloca nella città di Milano, che diciamo per il nostro servizio è un po' la città di riferimento in Italia, nella misura in cui direi che la quota prevalente del nostro pubblico risiede oggi nel nord Italia. Sì. Senti Chiara, l'elemento che ha attirato di più la mia attenzione rispetto all'email che mi è arrivata di comunicazione è stata questa anteprima del documentario di Jim Jarmusch dedicato niente poco di meno che alla figura di Iggy Pop, quindi è anche un evento di parecchio interesse rispetto non solo alla musica ma alla cultura in generale. Sì, è un'iniziativa che abbiamo portato avanti insieme al distributore di questo film in Italia, che è BIM, anche per evidenziare il fatto che proprio Infinity ha questa duplice vocazione, cioè da una parte sicuramente noi offriamo film che sono blockbuster, che sono usciti molto di recente, però dall'altra cerchiamo di dare spazio anche a film di qualità che però sono più di nicchia, al grande cinema d'autore, perché internet appunto ci dà questa opportunità e ci dà anche la possibilità di farlo in maniera personalizzata, quindi proponendo questi contenuti al pubblico giusto, a un pubblico magari più sofisticato di intenditori del cinema. Mm-hmm. E quindi proprio nell'ottica di promuovere quello che è il cinema d'autore, noi realizziamo periodicamente anteprime di questo tipo. Sì. E il film di Jimmy Jarmusch è sicuramente un ottimo esempio, no, di film di qualità, indipendente, non è la solita cosa, ed è un tipo di prodotto che appunto al pubblico di Infinity piace. Sì. Senti, arriverà poi in sala, immagino e spero. Sì, no, sicuramente. Okay. Mi dicono, ma non posso garantirlo, che dovrebbe arrivare nelle sale per la fine dell'anno. Sì. Tra l'altro Jim Jarmusch, oltre che regista, è anche musicista, quindi immagino l'attenzione con cui ha realizzato questo lavoro dedicato alla figura di Iggy Pop. Senti Chiara, per saperne di più sull'Infinity e anche le modalità di partecipazione, ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, infinitytv.it. Benissimo. Chiara, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, arrivederci. Ciao. Chiara Tosato per l'Infinity Film Festival, l'anteprima del documentario Gimme Danger di Jim Jarmusch dedicato ad Iggy Pop, e poi le premiazioni dell'Infinity questa sera al Milano Film Festival, oggi giovedì 15 settembre. E ritroviamo Michele Trentini per parlare con lui del suo documentario Alta Scuola. Michele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno. Spero si senta bene perché sono in un paesino sui monti. Un paesino sui monti, sì. Un po' si sente perché la voce va e viene, insomma. Comunque, cerchiamo di farcela. Allora, ho avuto modo di vedere il tuo lavoro, mi sembra molto interessante. Ce ne racconti un po' di questa avventura? Certamente, tutto nasce 4-5 anni fa, quando in una piccola scuola di montagna a Peio, in Val di Peio, nel Trentino, una pluriclasse che ben funzionava, diciamo le istituzioni, la provincia decide di sopprimere questa realtà, e io vengo informato da un'amica che conosceva appunto questa scuola, del fatto che i genitori decidono in pratica di autogestire una nuova scuola in una casa privata, al piano terra di una casa privata, e danno vita, diciamo, a un progetto che si chiama Scuola Peio Viva, che è durato per 2 anni, purtroppo poi insomma hanno dovuto abbandonare perché i bambini erano rimasti, le famiglie erano rimaste in poche, però per quei 2 anni che io racconto nel documentario Alta Scuola, ideato, ricordo, appunto da questa amica che si chiama Giulia Mirandol, ecco, racconto questa esperienza abbastanza straordinaria perché diciamo che hanno avuto genitori, insegnanti, volontari, bambini la possibilità di sperimentare diciamo dei metodi anche alternativi nel campo della pedagogia, ma soprattutto anche di mettere in discussione quello che è il modo, diciamo, l'approccio classico, no? che viene utilizzato nella scuola elementare, ecco. Quindi questo attraverso anche delle riunioni tra genitori molto accese, in cui si parlava proprio di questioni di metodo, eccetera eccetera. In parallelo racconto anche la scuola, quindi i protagonisti sono i bambini. Sì, sì, sì. Michele, 2 elementi mi hanno colpito del tuo lavoro. Uno è la competenza con con la quale questi genitori e insegnanti hanno portato avanti questo progetto, e l'altra è una forte volontà a non lasciar morire le realtà di provincia rispetto ai centri urbani più dove poi si concentrano sia la popolazione che tutte le attività. Diciamo che una delle cose principali che vuole comunicare questo documentario è il punto di vista di questa gente, cioè che non è scontato. Quando l'ho proiettato, insomma, in diverse occasioni, ci sono alcune persone, magari dei turisti che arrivavano in località di montagna dove ho proiettato il documentario, mi chiedevano: ma vale proprio la pena tenere in piedi una scuola, ma è proprio necessario, ma forse non è il caso di risparmiare, no? Allora io cercavo di far capire a queste persone che facendo questo documentario io in qualche modo mi sono messo proprio dal punto di vista di questa gente che vive e ha intenzione di continuare a vivere in periferia, nella periferia montana, in questo caso del Trentino. Quindi rinunciare a una scuola non è un aspetto secondario, cioè per loro la scuola, prima che si vedesse, era diciamo uno degli elementi principali della comunità. E pensate, cioè, che questi bambini andavano a scuola a piedi, e quindi rendevano anche, come dire, più vivace la vita di questo paese. Era anche un'occasione per i genitori di trovarsi, di confrontarsi assieme anche ai bambini. Era un modello di scuola che funzionava, quindi non sta in piedi, diciamo, la questione del risparmio, dei tagli, no? Perché questa scuola costava veramente poco, no? E magari grandi investimenti sono stati fatti e si fanno tuttora proprio in quei luoghi, sugli impianti di risalita, sullo sci, per il turismo, ma dall'altra parte la montagna di chi veramente vive tutto l'anno in quei luoghi si lascia, come dire, cadere, no? Non si viene incontro a quelle che sono le richieste fondamentali di questa gente, ecco. Mm-hmm. Io ho cercato di raccontare questo. Sì, sì, anche perché la scuola è un elemento fondamentale in una comunità, intanto perché mantiene i bambini, i giovani, e quindi il futuro lì, insomma, e questa è una premessa fondamentale perché un luogo continui a vivere. E poi, come dicevi tu, diventa anche un epicentro, un'occasione di confronto, ma anche di scambio, quindi di un elemento culturale importante per la gente che ci vive. Assolutamente. Allora, una delle cose secondo me fondamentali, cioè, che ho imparato anche io, insomma, facendo il documentario, è che la contiguità, se vogliamo, tra la scuola, quindi la classe, anche l'edificio, e il mondo in cui i bambini vivono la loro quotidianità è fondamentale, perché quello che viene appreso a scuola tutti i giorni poi trova riscontro fuori dalla porta dell'aula, della scuola, no? I bambini andavano magari a fare la spesa durante l'orario di lezione, era un compito che magari qualche genitore poteva dare, o qualche insegnante, a questi bambini, di andare a fare la spesa, quindi di lavorare con la matematica, o di andare a far visita al caseificio turnario, di fare lezione all'aria aperta. Cioè, il mondo, diciamo, della quotidianità e del paese è in questi casi strettamente legato alla scuola, e credo che apprendere mentre le cose si fanno, no? Cioè, si vivono in prima persona, quindi non solo sui quaderni, sui libri, sia una cosa, cioè, sia un metodo molto efficace, perché ho letto, diciamo, l'entusiasmo dei bambini proprio sui loro volti. Se mi permetti, volevo ricordare che è uscito di recente anche un DVD, un DVD book edito da CR, che è un editore di Verona, ma insomma il DVD si può trovare anche online su vari siti, Amazon, eccetera eccetera, e questo libro che c'è all'interno, che è curato da Giulia Miranda, è molto interessante perché ci sono testi dei maestri che hanno insegnato nella scuola, di Franco Lorenzoni, insegnante, scrittore, di Giusy Quarenghi, che è una scrittrice, diciamo, di racconti per bambini, di Giovanna Zoboli, dell'editore Topi Pittori, e quindi è proprio un, come dire, un'integrazione al film che è presente nel DVD, secondo me di grande qualità, ecco. Consiglio, se avete la possibilità, di acquistarlo. Bene, allora ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più sul documentario, ma anche sulla tua attività, Michele. Allora, io non ho una pagina in internet, però ad esempio sul sito cinemaitaliano.info, che è un bel sito, sì, digitando o il mio nome o il nome di Alta Scuola o di vari documentari, escono, diciamo, i festival a cui partecipa, c'è il link alla pagina Facebook e anche alle edizioni dei miei documentari. Benissimo. Ecco, quindi si può trovare facilmente. Benissimo. Allora, un abbraccio e a risentirci presto, Michele. Grazie a Federico e un saluto a tutti. Arrivederci. A presto, ciao. Ciao, ciao. Michele Trentini, regista del documentario Alta Scuola. E ritroviamo anche Daniele Lupi per parlare della nuova stagione del Cine Club de Tour, che prende il via proprio domani, venerdì 16. Ho appena salutato Michele. Daniele, ben ritrovato. Ciao Federico, ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao. Sì, domani ricomincia la stagione del The Tour. In questo momento siamo qui anche con Sergio e Cristina, che ci diamo da fare per rimettere a posto piccole migliorie e grandi cambiamenti insieme. Riapriamo domani sera il primo spettacolo. Proietteremo Gueros, un film messicano di Alonso Ruiz Palacios, che ha vinto un premio come miglior film d'esordio alla Berlinale di un paio di anni fa, credo. E l'abbiamo presentato proprio con la distribuzione. Sì, i ragazzi della Bunker Hill, in collaborazione con loro. E effettivamente è un film in bianco e nero, on the road tra l'altro, perché sì, il tema ci interessa particolarmente, come ben sai, e quindi lo presentiamo, sì, arriviamo con questo film, una pellicola molto, molto toccante, molto, molto bella. E sabato proseguiamo la programmazione con il film di Love Diaz, regista appena premiato a Venezia, con il Leone d'Oro, e proiettiamo il suo Stormy Children, Figli dell'Uragano. È un documentario con immagini in bianco e nero, che ci parla di uno dei più devastanti uragani che ha colpito le Filippine nel 2013, l'uragano Yolanda, che hanno sempre questi nomi un po' esotici, gli uragani. Sì. Poi gli effetti invece sono devastanti, in questo film si vedono bene, e in particolare lui focalizza la sua attenzione sui ragazzi di strada che vivono nei sobborghi delle grandi metropoli e che vivono di solito in baracche, che l'uragano ovviamente spazza via. Tra l'altro ne parleremo proprio con Donatello Fumarola di Zomia, che lo distribuisce. Sì, che è il distributore. Sì, sì. E la programmazione continua domenica con una doppia proiezione, Trouble Makers, è un documentario che racconta la storia della Land Art, della quale tanto si è parlato in occasione dell'installazione di Christos al Lago di Iseo nella primavera scorsa. Sì. E successivamente alle 21 invece proietteremo un film inedito in Italia di Ken Loach, uno dei film girati da Ken Loach per la BBC nei primi anni 70 nella serie The Wednesday Play. Il film si chiama The Rank and File, che tradotto letteralmente si può tradurre come sindacato di base, ed è infatti la storia di una vertenza sindacale e dei suoi esiti per i lavoratori. Senti, poi ci sarà modo anche per parlarne, ma state anche per partire con i preparativi per il festival, il vostro festival. Sì, il nostro festival. Questi film di questo mese sono già parte del festival come preview, come anticipazioni, e soprattutto però a fine mese, come parte del nostro On the Road Film Festival, che quest'anno è la quarta edizione, e terremo una masterclass del regista russo Artur Aristakisyan. E l'abbiamo organizzata insieme alla Noeltan, che è una piccola società di produzione di Antonello Faretta e Adriana Bruno, e speriamo che questa sia la prima di tante collaborazioni con loro. E l'abbiamo organizzata con loro, con Fuori Orario, perché la presenza di questo regista qui a Roma è stata anche fortemente voluta da Enrico Ghezzi, che parteciperà sia alla masterclass, cioè agli incontri che si terranno il 30 settembre, il 1 ottobre, il 2 ottobre qui al Detour, in orario diciamo diurno, dalle 10 alle 16, ma parteciperà anche poi alle proiezioni dei film di Arthur, che sono due, sono Un posto sulla terra e Palms, che verranno proiettati il giovedì e la domenica, quindi prima e dopo la masterclass, ed è un'occasione abbastanza rara di parlare di cinema, dell'estetica del suo cinema, dell'estetica del cinema in generale, del cinema di oggi, con un regista che ha fatto soltanto due film che hanno avuto grande successo, hanno ricevuto moltissimi premi nei festival di tutto il mondo, hanno vinto l'equivalente dell'Oscar, l'equivalente russo dell'Oscar, ed è un regista completamente estraneo a qualsiasi mondanità, a qualsiasi contesto festivaliero di cinema, e quindi è anche un'occasione rara di avvicinarlo, di sentirlo lavorare e di sentire i segreti del suo cinema e di parlare con lui e con Enrico Ghezzi del cinema di oggi. E le iscrizioni a questa masterclass sono aperte fino praticamente al giorno prima, e comunque, ecco, come detto, il giovedì 29, prima che inizi la masterclass, la sera ci sarà comunque la proiezione di uno dei due film di Arthur qui al Detour. Bene. Senti, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sulla programmazione? Volentieri. CineDetour è il nostro sito, cinedetour.it, su Facebook CineDetour. L'ultima cosa volevo aggiungere, se me lo permetti, il festival, perlomeno nella parte di concorso, quindi concorso lungometraggi e concorso cortometraggi, si terrà dal 23 al 29 ottobre. Benissimo. Qui al Detour principalmente. Benissimo. Daniele, un abbraccio, a risentirci presto. A voi. Ciao, Federico, ciao, ciao, ciao, ciao. Daniele Lupi del Cineclub Detour per parlarci della nuova stagione e della riapertura a partire da domani, venerdì 16 di settembre. Abbiamo parlato poco fa con Daniele Lupi per la programmazione del Cineclub Detour, che riapre le attività, e nel corso del suo elenco ha parlato anche della programmazione di Figli dell'Uragano, e di questo documentario ne parliamo con Donatello Fumarola di Zomia, che distribuisce il documentario. Donatello, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti. Tutto bene? Sì, abbastanza. Si ricomincia. Un po' nuvoloso, speriamo sia di buon auspicio per il film, visto che parla di tempesta. Senti, allora, raccontaci intanto di questo lavoro, parliamone un po'. Dunque, un film di due anni fa, fatto da Lalo Diaz, che è questo grandissimo regista filippino che inaspettatamente quest'anno è stato, diciamo, onorato del Leone d'Oro con il nuovo film che speriamo di distribuire per Natale. E praticamente lui ha dato, dopo che ci fu nel 2013 questo tsunami, una tempesta chiamata Yolanda, molto molto violenta, che devastò il Mindanao, che è la regione dove Lau è nato, tra l'altro, che è una delle isole a sud delle Filippine, e si è installato in sto paese, che era il paese dove lui andava al cinema con suo padre, tra l'altro, e da solo con la camera, e ha filmato la vita che, diciamo, è sopravvissuta alla devastazione, quindi in modo inaspettato ragazzini che giocano a basket tra i relitti di navi che si ritrovano ora nel centro del paese al posto che è attraccata al porto, e come si è riorganizzata la vita. A me ricorda tantissimo le tante volte che ormai l'ho visto, Paesaggi Rossellini, perché è nato un po' da una situazione di urgenza molto simile. Da noi la guerra, quando Rossellini ha fatto Paesaggi, da loro questa guerra permanente che sono questi tifoni, queste catastrofi naturali che per la posizione geografica in cui sono, diciamo, li colpiscono abbastanza di frequente, ed è uno sguardo molto libero. Nel film non si spiega nulla, quindi ma è anche molto leggero e molto semplice, non c'è nessun intellettualismo, nessuna volontà di dimostrare nulla, diciamo. Senti Donatello, dove e come lo avete incontrato questo lavoro e come avete deciso poi di distribuirlo? Dove e come non me lo ricordo più, nel senso con Lava ci conosciamo da tanti anni, e non ricordo io la prima volta che l'ho visto dove era il film. Con lui abbiamo preso tanti film, stiamo restaurando dei suoi vecchi film, e nell'sta avventura folle kamikaze della distribuzione lui era uno di quelli che ci siamo detti era giusto far uscire, tutto questo in collaborazione con i nostri insostituibili partner che sono Malastrada Film, che sono altri pazzi che lavorano su questo tipo di cose, diciamo. E quindi è un po' un atto d'amore per me. È il cinema che amiamo e che secondo me è giusto diffondere, insomma, di fianco Independence Day, che andrò a vedere. Comunque altri figli della tempesta pure quello, però. Senti Donatello, quali modalità distributive avete scelto? Allora, grazie al genio tecnologico di Malastrada usciamo anche in streaming, perché in Italia, specie per piccole distribuzioni come noi, è difficilissimo arrivare alle sale, che a volte manco ti rispondono. Per cui poi ovviamente il Leone d'Oro ci ha aiutato in modo più o meno involontario, quindi in realtà usciamo in un sacco di posti: Roma, Milano, Perugia, Spoleto, Parma, Reggio Emilia, Bologna, sono tanti posti dove il film verrà proiettato, però lo facciamo uscire da oggi, non so da che ora, anche in streaming, per cui è anche visibile in eccelsa qualità attraverso il sito internet di Malastrada. E i modi sono i soliti nostri improvvisati, le sale che ci rispondono e con le quali si è stabilito nel tempo una complicità e li proiettano. Per il momento quante sono le sale? Sono una quindicina. A Roma l'Apollo 11 e il Detour. Fuori, vabbè, il solito postmodernissimo, il cinema più azzardato d'Italia. sono tutte piccole sale comunque, Senti, farete anche delle presentazioni mirate alla presenza magari vostra per... No, per una volta abbiamo abbandonato sta pratica, poi anche perché appunto il regista non poteva essere presente perché era impegnato, e volevamo anche provare a lasciare il film da solo senza accompagnarlo alla presentazione. Spero che se ne parli in modo, diciamo, al di là delle nostre della nostra spinta. Interessante. Poi anche in preparazione del film che ha vinto a Venezia, che è una cosa molto diversa da questo. Senti, e per questo punto ci lasci tutti gli indirizzi web per saperne di più? Sì, vabbè, a parte il sito zomia.it e malastradafilm.com, il link per vedere il film è love-diaz.malastradafilm.com. Perfetto. Poi ci sono sia di Zomia che di Malastrada le pagine Facebook. Sì, certo, certo. Bene, allora Donatello, speriamo bene. Sarà una curiosa scoperta, diciamo, come andrà. Bene. E ci sentiamo per le prossime. Va bene, dai, grazie ancora. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Donatello Fumarola di Zomia sulla distribuzione del documentario Figli dell'Uragano, in uscita in sala oggi giovedì 15 settembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla trasmissione, sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Loredana Monaco, curatrice della rassegna Io sono mia alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma. È cominciata il 12 settembre, va avanti fino al 31 ottobre. Loredana, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico. Tutto bene? Sì, benissimo. Vuoi sapere qualcosa su questa rassegna che dopo due appuntamenti sta già riscuotendo un notevole successo? A questo punto, allora, sì, diciamo quali sono quelli che abbiamo perso prima di parlarne, insomma. Allora, noi abbiamo inaugurato con Suffragette, sì, e ieri c'è stata Alla ricerca di Vivian Maier, quindi abbiamo inaugurato con il diritto, diciamo, del voto alle donne, e ieri con un fantastico documentario che parla di incredibile, sì, una, sì, scelta, sì, sì, sì. Infatti questa rassegna, che si chiama Io sono mia, ha come sottotitolo Il coraggio delle scelte delle donne. Sì. Tra l'altro sono due lavori sui quali abbiamo puntato la nostra attenzione quando sono usciti in distribuzione, quindi ne abbiamo già parlato volentieri. Loredana, come nasce questa rassegna? Guarda, in realtà questa rassegna nasce prima dell'estate. Questa intanto fa parte, Io sono mia, di un progetto. Sì. Questo progetto prevede la rassegna, incontri, dibattiti e varie cose che accadono alla Casa Internazionale delle Donne. Abbiamo pensato di chiamarla Io sono mia per riprendere un vecchissimo slogan del movimento femminista, e soprattutto questa rassegna, che intanto potete vedere su www.casainternazionaledelledonne.org con tutti gli appuntamenti, con tutte le schede, nasce dall'ennesima notizia di femminicidio e l'ennesimo centro antiviolenza chiuso, sì, per mancanza di soldi. E a questo punto noi, alcune professioniste e donne che lavorano all'interno della Casa Internazionale, non ci siamo più potute stare ferme, per cui abbiamo deciso di cominciare a trattare di temi che forse non sono stati più trattati da diversi anni, quasi per riappropriarci di cose, di scelte, di filosofie di genere femminile, insomma, di darci anche coraggio tra noi, anche nell'avvento della manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 26 novembre contro il femminicidio, per avere delle leggi diverse, e quindi questa della rassegna cinematografica è stato un pretesto per parlare praticamente ogni sera di un tema. Possiamo parlare di diritti, possiamo parlare di lavoro, come addirittura Roma ore 11 del 52 di De Santis, fino a finire a We Want Sex. Possiamo parlare appunto di diritti col pluripremiato film Mustang, e via dicendo. Sì. Possiamo parlare di scienze con Astro Samantha, e fra un po' ci sarà lunedì prossimo Via Castellana Bandiera. Sì, sì, ogni, sì, volta decidiamo di farlo presentare da una donna che noi riteniamo autorevole per il tema trattato. Introdurre il tema. Sì, sì. Senti Loredana, quindi è un progetto che nasce all'interno della Casa delle Donne. Sì, nasce all'interno della all'interno. Casa. I criteri per la scelta dei titoli? Si è basato sul nostro sul nostro amore che abbiamo avuto riguardo il nostro trasporto per queste pellicole, e soprattutto perché ognuna di queste emanava una scelta. Erano sicuramente donne più o meno forti, raccontano storie che dovrebbero portarci a riflettere su altro. Senti, sono state abbinate ai temi, come ho detto, per cui sì, questa è stata la scelta. Ecco, c'è un po' di titoli già li hai anticipati. Le aree tematiche, come ti dicevo, sono i diritti. Ok. Dove mettiamo anche situazioni di violenza, dove mettiamo anche, perché c'è appunto da lunedì via Castellana Bandiera, mercoledì abbiamo Persepolis, lunedì prossimo Carol, poi il 28 Vergine Giurata, il 3 ottobre Mustang, lunedì 10 Per Amor Vostro. Un film abbastanza duro. Altro criterio, scusami se interrompo questa sequenza, è anche il fatto che tutti questi film sono stati veramente poco nelle sale. Sì, è vero. Essendo film così importanti, così che ci hanno preso il cuore, non ci sembrava giusto, e forse anche questo è stato il fatto che ci siamo ritrovati il cortile pieno di gente che voleva sentire, vedere e parlarne insieme, ecco. Sì. Ecco, dicevi anche dell'abbinamento rispetto a persone, a donne, a voci che secondo voi sono autorevoli rispetto ai temi trattati. Ecco, questo abbinamento pellicola personaggio, come ci siete arrivate? Ci siamo arrivate, uno, per vedere il tema del film, e l'altro anche nello scoprire che la persona che vorremmo sentire parlare di quella pellicola tiri forse fuori un tema nuovo. In questo caso abbiamo per esempio Castellana Bandiera lunedì, che viene introdotto da Manuela Faraire, una psicanalista abbastanza nota anche nel femminismo. Addirittura ieri ha introdotto la pellicola La ricerca di Vivian Maio, Renata Ferri, che è di Io Donna e del gruppo RCS. Senti, le presentazioni come avvengono? Nel senso, c'è l'ospite che introduce e poi c'è anche un momento di confronto con il pubblico? No, guarda, il momento di confronto con il pubblico non c'è, perché probabilmente stiamo sentendo che forse ce n'è bisogno, ma allora si crea un altro tipo di incontro. Certo. Prima di tutto c'è una cosa appunto che sottolinea il tema, e che sono delle piccole pillole tratte da Raiteke, soprattutto da una trasmissione di Tibera Pomazza che si svolgeva negli anni 70, Si dice donna. Da quelle trasmissioni stiamo tirando fuori 5 minuti sull'argomento, sull'argomento di quella sera. Sì. E di tutti, appunto, il lavoro si può svolgere in maniere diverse, come raccontarlo, no? Sì. Appunto, da Roma ore 11 a We One Sex, come dicevo prima, per cui immaginati quante sfumature ci sono. Sì. Senti, i giorni settimanali e gli orari sono sempre gli stessi? Sono per tutto settembre lunedì e mercoledì alle 20:30. Sì. Probabilmente saremo costrette a spostarci nella sala preposta, nella sala interna. Adesso l'abbiamo sempre fatto in cortile. A ottobre sarà solo lunedì, tutti i lunedì fino alla fine di ottobre. Benissimo. A questo punto ti chiedo gli indirizzi internet per saperne di più sulla programmazione. Allora, il nostro sito è www.casainternazionaledelledonne.org. All'interno dell'home page sarete introdotti in un banner che c'è Io sono mia, e lì ci sono tutte le schede dei film. Man mano siamo naturalmente anche nei vari eventi, nella nostra pagina Facebook, che è abbastanza seguita, e quindi non potete, se volete, non seguirci. Benissimo. Loredana, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci. Grazie, presto. Federico. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Loredana Monaco, curatrice della rassegna Io sono mia, alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, cominciata il 12 settembre, va avanti fino al 31 ottobre. Giovanni Bogani, autore del libro Faccio cose e vedo gente, presentato alle giornate degli autori alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia qualche giorno fa. Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, mi era arrivato questo comunicato, già a partire dal titolo ho detto bene, ne parleremo sicuramente, così è. Intanto ti chiedo, com'è andata la presentazione veneziana? Bene, molto bene, era emozionante perché in qualche modo facevamo parte della Mostra del Cinema di Venezia. Poi bene, perché abbiamo fatto una presentazione un po' anomala, essendo che lì ci sono tanti appassionati di cinema. Abbiamo fatto una specie di piccolo spettacolo con Nicola Pecci e con Lidia Dragone, sono due attori, Nicola è anche cantante. Abbiamo messo in scena in qualche modo le frasi dei film che compongono il libro e abbiamo anche cantato, quindi insomma, è stata una cosa che mi ha divertito molto e che in qualche modo ha un po' divertito anche chi c'era. Senti, spero che abbiate registrato in qualche maniera l'evento, perché sì. Non so se tu sai, ma io il martedì qui ho lo spazio del radioteatro in cui facciamo gli spettacoli dal vivo in studio o mandiamo in onda registrazioni, e questo potrebbe fare al nostro Fantastico. Caso lo faremo. Allora, io sono quasi un maniaco delle registrazioni, quindi ce l'ho. Ok. Ecco. Dall'altro, guarda, volevo essere sicuro, quindi avevo due videocamere che hanno registrato il sonoro e anche il video. Non è sfuggito niente. Poi le facciamo volentieri dove ci capita. Abbiamo fatto al teatro del Sale a Firenze, abbiamo fatto anche a Palazzo Vecchio una parte del programma di questo spettacolino, diciamo, e quindi insomma la passione per la musica insieme a quella per il cinema si fondono e facciamo queste, non so nemmeno come chiamarle, ma insomma performance, presentazioni. Esatto. Senti Giovanni, allora facciamo il passo indietro adesso, tu ti occupi da sempre di cinema, come nasce questo progetto? Il progetto nasce per le migliaia di visioni di film a cui sono stato costretto nella vita e anche un pochino insomma per piacere. Sì. Ho fatto un conto un po' approssimativo, si superano i 10.000 film visti, cosa che non è neanche tanto, cioè uno spettatore normale comunque va su quelle cifre se è abbastanza assiduo. Però insomma, film sui quali ho ragionato, sui quali ho dovuto scrivere per La Nazione, poi per altri quotidiani, poi per quella rubrica televisiva che si chiama Cinematografo, e quindi ragionando sui film ti vengono in mente le frasi che dicono gli attori, quelle che vorresti saper usare al momento giusto, quelle che magari ti sfuggono. Allora mi sono detto, proviamo a salvarle, proviamo a recuperarle, a tenerle, come dire, da qualche parte tutte insieme. Me le sono annotate, altre le ho cercate sul web, altre le ho ritrovate rivedendo i film proprio per cercare la frase, e quindi ne ho messe insieme, non so nemmeno quante siano, ma insomma diverse centinaia, che sono confluite in questo librettino che poi ha un titolo che richiama una delle frasi famose, diciamo, almeno per me. Faccio cose, vedo gente, è una frase che non ha bisogno di presentazioni. Sì. C'è questo dialogo. Vale anche molto per i giornalisti di cinema oggi, insomma, visti i soldi che girano, i pochi soldi che girano, quindi esatto. Uno si dice faccio cose e vedo gente, insomma. È quello che ci rimane, sì. Il resto, ahimè, i soldi non arrivano, quindi è una vita un po' dura. Sì. Senti Giovanni, i film citati, da cui provengono le citazioni, più o meno da che anno partono e fin dove arrivano? Sì. partono ovviamente dal sonoro, quindi dal 28 in poi, ma poi spaziano in tutti gli anni, tutti i generi. Ovviamente poi ci sono gli amori miei, nel senso i film, gli autori che amo di più, uno su tutti Woody Allen. In Italia c'è molto Verdone, ma c'è anche Francesco Nuti, c'è Veronesi, c'è Pieraccioni, e poi invece ci sono i classici americani, Casablanca, per dirti, o Viale del Tramonto, anche i classici un pochino più recenti, tipo Notting Hill, che è una commedia che a me è piaciuta molto e che insomma appare spesso nel libro. E poi film un pochino più rari, più dimenticati, quindi anche frasi che non sono conosciutissime, insieme a quelle che uno non può non ricordare: Blade Runner, il monologo finale del replicante, per dirtene una, il monologo di De Biccauna sulla vita, sulla giovinezza, sul senso della vita, quello della 25esima ora in cui Edward Norton se la prende con tutte le categorie umane ed è un crescendo di rabbia, di furore. Insomma, praticamente ritrovando tutte queste frasi è stata un po' un'avventura, è stato un divertimento. Pulp Fiction ha un capitolo a sé perché ce ne sono tante. Ah, quindi anche Fight Club. Sì. Ok, ma solo esclusivamente film o anche altro? No, sono principalmente film di finzione e qualche frase detta dai registi o dagli attori sul cinema o sul senso del loro lavoro con dei, come dire, un tessuto connettivo, e sono i miei discorsi sul cinema, sui generi, su come è nata questa ricerca, perché è nata tutta da una piccola spilla che comprai a Francoforte al Museo del Cinema. Una spilletta che costava 1 euro e c'era una frase in tedesco che diceva: conosco la vita, sono stato al cinema. Io dico, ecco, col cinema si conosce la vita. È un po' vero, un po' vero. Da lì, non so perché, ho cominciato a recuperare le frasi che nel cinema mi aiutavano a conoscere la vita. Sì. Tra l'altro adesso stavo ripensando, mentre dicevi delle frasi al di fuori dei film, dette da chi al cinema ci lavora, mi è rivenuto in mente un libro che ho letto quest'estate, un libro intervista a Mario Monicelli, in cui ho scoperto che la celebre frase di Alberto Sordi in risposta al perché non ti sposi, e lui risponde: ma che sei matto, una sconosciuta dentro casa, l'ha detta lui in conversazione privata con Mario Monicelli, e Mario Monicelli poi l'ha riportata a un giornalista e da lì è esplosa, insomma. Però non sì, sapevo di questo. Una cosa che pensava un po' anche Monicelli, il quale è stato tanti anni con Chiara, ma non voleva condividere la stessa casa. Senti Giovanni, stavo pensando anche rispetto a questo lavoro, ecco, sul risultato finale, quanta influenza ha avuto il doppiaggio italiano? Tanto, anche perché molte frasi le cito nel doppiaggio italiano, perché poi noi insomma siamo abituati a sentirle così, le abbiamo memorizzate in questo modo. E lì si apre uno scenario enorme, perché il doppiaggio è molto bello per un verso, dall'altro tradisce inevitabilmente, fa perdere qualcosa. Non so, arrivo ora dal Festival di Venezia, una delle cose belle per me è sentire i film nel sonoro originale con i sottotitoli, ma insomma senti la voce, l'impasto delle voci vere, senti le emozioni degli attori. Quando sono doppiati è tutta un'altra cosa, è tutto diverso. Sì. Non toglie, ci sono dei doppiaggi bellissimi, però si capisce che qualcosa è di artificiale quando si fa il percorso inverso. Tipo, prova a immaginare, e l'ho sentito tra l'altro, un film con un Montalbano in russo, ecco, per dirtene una. Sì, perché fa impressione. Perché sì, per esempio una cosa che mi viene subito in mente rispetto al doppiaggio italiano e al senso, per esempio, del adesso ripensando anche a Gene Wilder e a Frankenstein Junior, Lupululì, Castello Ululà, certo. E quindi uno si chiede, sì vabbè, ma che avrà detto poi nell'originale? Sono delle cose che funzionano in italiano magari più che in inglese. Sì. Lo stesso appunto Blade Runner, navi a combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Sì. Noi le sappiamo in italiano, poi chissà se era così mitico in inglese. Sì. Poi ci sono quelli perfezionisti che hanno curato anche il doppiaggio italiano dei film. Sai che Kubrick mi viene in mente, quando in Shining c'è Jack Nicholson che scrive a macchina il suo romanzo, esatto, e poi sappiamo che è solo, esatto, una frase, esatto, quella frase in italiano è il mattino all'oro in bocca. Sì, sì, sì. E uno si chiede, ma da dove sarà venuta? Perché in inglese è un'altra frase. Questa frase, il mattino all'oro in bocca, l'ha scelta direttamente Kubrick, che ha scelto tutte le frasi per tutte le versioni internazionali dei suoi film, cioè per il francese, per lo spagnolo, per l'italiano, sì, per il portoghese. Le ha scelte tutte lui. Quella, per la sua precisione maniacale. Sì, Make Jack Dal Boy. Sì. Che era tutta un'altra cosa. Insomma. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Senti, dopo. Ma... Allora, è stata una prima uscita questa veneziana? Sì, poi ce ne saranno altre. Mi hanno, tra l'altro, notizia di ora, mi hanno invitato alla Casa del Cinema a Roma, che è una cosa che mi fa molto piacere, ovviamente. Uno dei luoghi più belli dedicati all'amore per i film e per tutto quello che c'è intorno. E a Firenze la sto pensando dove farla, e poi sì, la faremo in giro, diciamo, dove ci chiamano volentieri vado. Spesso con Nicola Pecci, che è questo attore e cantante bravissimo secondo me, che mi ha dato una mano appunto a Venezia, e poi quando possibile con Eleonora Castelletti, che è un'attrice che mi ha aiutato in varie presentazioni di altre cose, e con Stefano Algerini. Quindi insomma siamo un po' di una piccolissima, come dire, micro compagnia che si muove quando facciamo questa cosa. Ma anche musicata in qualche modo? Eh sì, musicata, perché c'è questa chitarra, e ti presenterò, che si chiama Gioia, ormai l'ho battezzata perché insomma passo più tempo con la chitarra e con gli esseri umani, e poi si canta. C'è anche una cantante molto brava che è Caterina Fiaschi, che mi ha accompagnato molte volte. Ora lei sta studiando e lavorando fuori Firenze, quindi diventa un pochino più complicato farla arrivare nelle presentazioni, però insomma sono molto legato anche a lei per tutto quello che ha fatto, e ha una voce splendida, quindi se mai ci capiterà di essere in trasmissione a fare due note con te, cerco di farla venire. Benissimo. Senti, Giovanni, dicevi che non hai il conto preciso, ma più o meno quante sono queste citazioni? Dovrebbero essere più di 1000, perché sì, sono compattate in 200 pagine, però diciamo ce ne sono 5 almeno a pagina, quindi il conto è questo. E vanno e dalle... sono tutte quelle che mancano per la prossima edizione, perché ogni volta che vedo un film mi viene voglia, me ne appunto una, due, perché è diventata in qualche modo una passione. Poi è chiaro che ognuno ha le sue, quindi ognuno può vedere se ci sono dentro quelle che ama o se non ci sono, e magari insomma pensare a come l'avrebbe fatto lui. Sono, come dire, storie d'amore quelle tra i film e noi, tra noi e le parole dei film. Sì, se vanno da quello che mi hai raccontato, dalla frase secca al monologo. Sì, sì, sì, ci sono citazioni di mezza riga e ci sono monologhi di una pagina e mezzo, come quello di Radio Freccia, per esempio, Stefano Accorsi, che racconta ciò in cui crede nelle rovesciate di Bonimba, nei riff di Keith Richards e poi a tutte le altre cose, e all'Inter famosa di Corso Mazzola e Suarez, che non ci sarà mai più. Senti Giovanni, per saperne di più sul libro, ma anche sulla tua attività in generale, riferimenti web? Senti, la cosa più semplice ormai è la pagina Facebook, certo, Giovanni Bogani, perché sì, se segui quella vieni, come dire, non mi perdi di vista, ogni giorno qualche cosa appare, qualche cosa metto. Per il libro cercare Giovanni Bogani, faccio cose, vedo gente, Su Amazon, su IBS, in vendita online anche col sito dell'editore che si chiama Apice Libri, e dal sito dell'editore non ci sono le spese di spedizione, quindi insomma può essere conveniente. Comunque insomma è un libro che circola, è distribuito in tutta Italia, come tutti i libri, nel senso che poi è difficile ugualmente arrivare in libreria, però intanto so che esiste, se uno lo chiede anche a Trapani, a Erice o a Bolzano dovrebbe poterlo trovare. Allora ci salutiamo, tu però prendi nota perché il radioteatro va in onda in diretta il martedì dalle 14 alle 16, quindi fissa la data uno dei prossimi martedì. Bene. Va bene? Molto bene. Okay. Ti ringrazio per l'invito. Un abbraccio, allora, e a presto Giovanni. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Giovanni Bogani, autore del libro Faccio cose e vedo gente. Oh, parliamo di... torniamo a parlare di film in sala. Ne parliamo con Luciano Luminelli, che è regista del film Una 10.000 lire, uscito in sala lo scorso 6 settembre. Luciano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, grazie, troppo buoni. Sì, eccoci qua a veicolare il mio progetto, come dire. Sì, Una 10.000 lire nelle sale dal 6, oggi al Madison, sul territorio romano. Per passare poi al Caravaggio, al Farnese, questo 50enne cinema romani, e poi scendere nelle aree del girato, Lucania e Puglia, dalla fine del mese, poi saliremo, andremo invece nelle aree, come dire, sopra la pianura padana, Piemonte e Lombardia. Sì, un film che io ho girato esattamente, ho finito di girare 2 anni fa, abbiamo montato il tutto e da circa, insomma, 6 mesi, 7 mesi siamo qui, insomma, a parlarne con molto entusiasmo. Luciano, ti chiedo subito, visto che è uscito già il 6, il bilancio, un primo bilancio di questi giorni di uscita. Beh, devo dire più che buoni, insomma, oltre le aspettative, nel senso che è un film indipendente, per cui capisci bene, non appartenendo alle major, capisci bene che non c'è quella visibilità dei più. Noi abbiamo fatto tutto in maniera molto artigianale, siamo riusciti, insomma, ad arrivare nelle sale, che è cosa da, per pochi eletti, presumo, insomma, senza volerci autoincensare. Pertanto, ecco, sono contento, insomma, c'è un bel battage intorno, siamo stati, come dire, abbiamo avuto il battesimo di Mamma Rai, insomma, della Rai, di Rai 1. Siamo stati, insomma, ospiti da Marzullo qualche giorno fa, e i critici ne hanno parlato molto bene, insomma anche il TG1 ci ha fatto un bel servizio, esattamente venerdì, se non vado errato, no, oggi è lunedì. E sì, io sono contento, il film è un film che appartiene alla nostra terra, è un film italico, italiano a tutto tondo, abbraccia un 50 anni di girato che va dagli anni 60 ad oggi, racconta una storia di immigrazione, la nostra immigrazione interna, dalla Basilicata, così come dalla Calabria, dalla Puglia, da tutte le aree così meridionali, si partiva in cerca di fortuna per poi tornare da adulti, insomma, come dire, con le tasche rimpinguate. Ecco, questa è un po' la storia, ma insomma una bella storia che può ricordare veramente tante tante storie italiane, sì, che oggi appartengono ai nostri genitori, magari, ecco, qualche nonno, però insomma sono lì, non si parla di guerra, si parla degli anni 60, per cui è una storia abbastanza vicina. Luciano, sì, io sinceramente non ho avuto ancora modo di vederlo, ma mi incuriosiva molto la tematica, per cui sicuramente ho detto parliamone, e volevo chiederti come è nato tutto il progetto, dicci un po'. Sì, il progetto nasce esattamente 4 anni fa, io inizio a scrivere questo film, era una cosa che avevo in testa, prima di questo ero reduce da un paio di cortometraggi, qualche format televisivo, insomma, di reti private e web, per cui insomma il mio background era un background morbido, non era così corposo, però insomma con una formazione alle spalle importante, perché io prima di questo esordio alla regia e alla produzione, a prescindere dai due corti e dai format televisivi, ho inanellato in un, diciamo, in un decennio 60 film, e non dico di aver fatto 60 film che sarebbe insomma pretenzioso, ma ho preso parte, ho partecipato a più di 60 film girando con i grandi del cinema, da Alberto Sordi a Nino Manfredi a Bud Spencer, insomma facendo tanti ruoli. Pertanto insomma la telecamera, come dire, la macchina da presa ce l'avevo abbastanza, come dire, addosso. ce l'avevo un po' come sotto pelle, insomma, sì. Cui sapevo cosa andavo a fare. Senti Luciano, qual è l'area del meridione, se c'è una delle aree del meridione su cui più ti sei focalizzato? Il film è stato girato in Basilicata. In Basilicata, ok. Più precisamente a Matera, Potenza, Montescaglioso e a Ersina. Ersina è stato il teatro principe del girato, perché il nostro protagonista parte da questo paesino ameno, così, di Lucano del Materano, appunto Ersina. Per cui io ho girato in Basilicata. Però come dicevo appunto prima, sappi, io 50 anni, tu forse sei un po' più giovane, che comunque insomma per ricordi, seppur non vissuti, però di riflesso, per formazione, insomma dalla Basilicata si partiva come si partiva dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dall'Abruzzo, dalla Campania, cioè una storia che appartiene a tutto il sud. Poi naturalmente in questo momento calcola che, cioè vuol dire, avendo girato in Basilicata, è un film che parla di Basilicata, di Lucania, in questo momento oltremodo veicolata con film così papaliani, diciamo, di Rocco, che insomma la porta agli altari e insomma anche discretamente bene, Rocco Papaleo. Però ecco, insomma, è un film che io ho girato in un territorio, ti dico la verità, insomma, che veramente per certi aspetti, in alcuni punti, è rimasto intonso, è rimasto cristallizzato a 50 anni fa. Senti Luciano, in fase di scrittura avete attinto a materiale variegato di che tipo? No, io quando ho scritto il film ho attinto alle mie conoscenze di okay. quello che è appunto una storia che appartiene appunto all'Italia, per cui non ho fatto riferimento in particolar modo a qualcosa di ben preciso. Mi sono ispirato a delle storie vere, qualcuna sfiorata nel mio vissuto attraverso qualche conoscenza, però poi insomma diciamo che la sceneggiatura è stata edulcorata, è stata resa filmica, insomma è stata resa come dire appetibile per lo spettatore, insomma. Però alcuni spunti naturalmente io li ho trovati dal vissuto di alcune persone, insomma, che ho conosciuto così da ragazzo, insomma, nel tempo, ecco. Ok. Senti, per quanto riguarda le sale, in quante sale è al momento il tuo film? Questo momento è in 3 sale, a Roma, Madison, Caravaggio e Farnese, e per poi credo, ecco, già da lunedì andremo a prenderci qualcosina di extraurbano, ci andremo a prendere qualche altra sala della provincia romana, già siamo in predicato, in accordo con altri esercenti, e per poi ecco scendere, come dicevo appunto prima, in Basilicata. Poi saremo il 27, 28, 29 e 30 a Potenza, a Matera, a Bari, a Lecce, e poi avremo anche lì altre sale, non capizona, ma diciamo così della provincia, per cui di cittadine minori, per cui vogliamo arrivare un po' capillarmente in tutte quelle aree dove ci si riconosce un po' di più, ripeto, lucane, pugliesi. Il girato che abbiamo fatto è a Diestina, che è un paesino di confine proprio tra la Basilicata e la Puglia, per cui respira un'aria anche pugliese. Non ti nego che abbiamo girato anche delle scene ad Altamura, che è proprio il territorio pugliese, ma insomma erano proprio due scene che ci servivano di raccordo per alcune per alcuni attacchi, insomma. Per cui ecco, questo è quanto. Per poi, ti dicevo, salire è già cristallizzato Torino, Asti ed Alessandria. Ok, senti Luciano, per saperne di più su, appunto, sulle sale e la distribuzione, ci lasci degli, se avete uno spazio web di riferimento sia per il titolo, per il film, che un tuo personale? Guarda, c'è la nostra pagina Facebook, okay, che è molto esaustiva, e per cui se tu vai, tra l'altro è aggiornata giorno dopo giorno, se vai su una 10.000 lire, diciamo, uscirà fuori il tutto, per cui potrai sicuramente trovare tanto materiale. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, un abbraccio a te e grazie dello spazio dedicatomi. Ciao Luciano, a presto. Ciao. Luciano Luminelli, regista del film Una 10.000 lire, uscito in sala lo scorso 6 settembre. Bentornata Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, questa volta per parlare della distribuzione del documentario Mr. Gaga, in uscita in sala oggi giovedì 15 settembre. Come va Anastasia? Ciao a tutti, va bene, siamo molto così in fermento perché oggi esce il nostro film su Anna Harin, che è questo grande coreografo israeliano famoso ma in tutto il mondo, che dirige la Basheva Dance Company e di cui siamo molto felici e molto orgogliosi. È un gran film che vedrete un po' dappertutto in Italia a partire da oggi. Come al solito anche a macchia di leopardo, quindi ci sarà la fatica che vi chiediamo, scusandoci in anticipo, di seguire molto i nostri social e il nostro sito Wanted Cinema, perché come sempre è difficile trovare le sale per il cinema documentario e quindi qualcuno parte oggi come noi è richiesto e altri lo programmano un po' organizzando autonomamente il proprio calendario, ovviamente a partire da oggi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Siamo molto in agitazione anche perché oggi con questo film inauguriamo la nostra campagna di crowdfunding, che è proprio per uno spazio cinema dedicato a Milano a questo tipo di programmazione, quindi a Mr. Gaga e ai film che insieme abbiamo già parlato proprio anche alla vostra radio, un po' ricercati il cinema documentario, uno spazio anche di aggregazione, di socializzazione. Quindi adesso sono qui e tra poco corro a programmare, così divento un po' esercente per la prima volta nello spazio che abbiamo per ora selezionato, scelto per Milano. Programmeremo alle ore 18 parte Mr. Gaga. Ci parli un po' di questo documentario, Anastasia? Certo. Allora, da una parte, diciamo, segue, diciamo, un percorso classico, una vera e propria biografia di questo signore, questo coreografo, che comunque si avvicina piano piano alla danza, parte da ballerino, conosce Martha Graham, da Tel Aviv si sposta poi negli Stati Uniti e ritorna fino a scoprire di volere essere lui, non tanto ballerino ma coreografo. E insieme quindi guardiamo come mette in scena, come prepara, no? Come prepara la coreografia di questa danza. Quindi ci sono anche delle scene molto molto maestose, una sorta di Pina Bausch come il film di Wenders, che vi ricorderete. Quindi c'è la sua storia, che parte dai kibbutz, da come si è avvicinato alla danza da un lato, e dall'altra la preparazione di questi spettacoli e il senso anche del suo lavoro, questo sistema, questo mister, questo Gaga, questo approccio che lui ha molto particolare alla danza, che insegna in giro per il mondo attraverso dei workshop. Ci sono una serie di ballerini proprio Gaga che raccontano questo modo di lasciare andare il corpo. È una sorta di spirituale, una danza un po' spirituale, molto molto corporea, è molto molto forte. Io ho avuto la fortuna anche di conoscerlo una settimana fa, questo Maharen che di rado gira per accompagnando le compagne, non sempre, insomma è lui proprio presente, che era a Torino in occasione del Festival della Danza, dove abbiamo presentato anche il nostro film documentario in anteprima. Quali sono gli aspetti che più ti hanno convinto di questo lavoro? Ma la passione che viene fuori da lui, che è un film molto stimolante. Io non danzo, non sono una particolare appassionata di danza, eppure riesce a trasmettermi un grande amore per e di voglia di approfondimento. Un po' anche in questo film ho ritrovato un po' le caratteristiche che sono dominanti anche degli altri film del catalogo, quindi la voglia di scoprirne di più, di frequentare un corso di danza il giorno dopo, lo stimolo che ti dà, secondo me, il film guardandolo, e poi anche molto visivamente molto potente, perché le scene di ballo collettive, tantissimi elementi, oltre al lavoro sul singolo il corpo che si lascia andare, è tutto molto, molto interessante e anche abbastanza nuovo, perché per chi non è proprio un appassionato si aprono dei mondi nuovi. Senti Anastasia, com'è stato l'incontro con questo documentario e la decisione poi di distribuirlo? La prima l'ho visto al Festival dei Popoli a Firenze l'anno scorso a novembre, mi sa, sì, a novembre, e poi ne ho sentito anche molto parlare, perché l'effetto che fa questo film è pazzesco, di passaparola, e quindi da dovunque andasse mi parlavano di questo film, e quindi l'ho visto un po' un segnale, e ho detto mi cercavo, c'era il cosiddetto buzz attorno al film, e allora io mi sono incuriosita, l'ho visto ed effettivamente anche sono rimasta io stessa conquistata, e devo dire che ci ho pensato molto poco, nel senso che mi sembrava un film talmente forte, potente e trasversale, cioè non solo per, come dicevo, per gli amanti della danza, che ho subito deciso di prendere. Quindi è un po' in realtà che lo teniamo in caldo, e abbiamo deciso di partire ora proprio perché sapevamo che a settembre sarebbe arrivato in Italia Naharin col regista, e questo evento torinese poteva essere un buon lancio per il film. Senti, l'esperienza Wanted Cinema, anche rispetto al periodo che avete trascorso e rispetto a questa nuova stagione, qualche direttrice l'avete individuata, linea direttrice? Come indirizzarvi da qui alle prossime uscite, se già avete in mente più o meno, anche rispetto, ecco, agli elementi su cui avete basato il vostro inizio d'avventura? Guarda, direi che abbiamo deciso quest'anno di fare un tentativo un po' diverso. Continuiamo sempre nella direzione che è quella che finora si è rivelata essere quella più di successo, ovvero le storie di grandi personaggi del mondo dell'arte piuttosto che della musica, quindi continuiamo in quella direzione. Il 24 ottobre in anteprima da noi qui a Milano per la campagna di crowdfunding faremo Mapplethorpe, quindi la biografia del grande fotografo, però per dire faremo un film su i primi attori di Star Wars, il primissimo Star Wars, questa compagnia un po' questo gruppo di attori sconosciuti che partecipano a questa avventura senza avere idea di che cosa fosse veramente la dimensione di questo film, che per loro era un TV movie in quegli anni. Quindi facciamo delle cose sempre tra il cinema, l'arte, però quest'anno faremo anche viriamo anche un po' sul tema del lavoro, ad esempio con un film, facciamo degli esperimenti, ecco. Di solito i temi più sociali, politici li teniamo un po' da parte, perché sono ancora più difficili, già difficile il nostro lavoro, e quindi abbiamo cominciato un po' così, con, adesso invece facciamo ancora, scegliamo questo film ad esempio che uscirà, non so ancora bene quando, perché ci dobbiamo lavorare bene insieme appunto Merci Patron, che ha avuto un grandissimo successo in Francia, e quindi vedremo cosa succederà in Italia, che affronta proprio, ripeto, il tema del lavoro. Quindi diciamo che vogliamo sperimentare ancora, per rispondere alla tua domanda. Okay. Non abbiamo individuato un percorso, fatto tesoro tanto dell'esperienza, abbiamo deciso anche di sperimentare ancora, sempre, accettando delle sfide nuove. Ecco. Senti, ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più sulla distribuzione di Mr. Gaga? Certo, allora diciamo il più aggiornato di tutto è sempre comunque la pagina Facebook, perché noi ci siamo tutti i giorni, che quindi la Wanted Cinema, poi c'è la pagina web www.wantedcinema.eu e basta, e niente, vi chiedo se avete voglia di darci una mano, avremo proprio tanto bisogno, comprare una magliettina, un DVD di film di cui sostenete la nostra campagna di crowdfunding, perché è molto importante che ci sia uno spazio super indipendente, libero da ogni logica commerciale, e dove potersi vedere in cosa. Quando venite a Milano siete nostri ospiti. E la campagna si chiama Cinewall, I Want Cinewall, ed è su Apple, la da questa mattina, quindi da poche ore. Grazie. Senti Anastasia, un abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario Mr. Gaga, in uscita in sala da oggi giovedì 15 settembre, e ci diamo appuntamento sempre con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, per giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta, e le informazioni su Visionari le trovate sul sito internet, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissione, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Alla settimana prossima.